Sono bastati pochi giorni alla maggioranza del sistema politico italiano per fare piazza pulita di un dibattito che aveva variamente impegnato la cultura occidentale per la bazzecola di 24 secoli. Era da quando Sofocle aveva posto il problema con l'Antigone, che risalve, salvo errore, al 442 a.C., che i dotti discutevano se l'obbligo di osservare le leggi, ovvio in una società organizzata, non ammettesse in certe circostanze le sue brave eccezioni. L'eroina di quella tragedia, come ricorderete, invocava contro la legge scritta il valore di quella non scritta. Si richiamava, cioè, un imperativo morale superiore, una posizione che, non senza motivo, non piacque a Platone, che la confutò una settantina di anni più tardi nel Critone. In seguito, tra le due posizioni si è sempre oscillato e nel tentativo di trovare una ragionevole mediazione tra le esigenze del diritto e quelle della morale si sono variamente rotti le corna personaggi del calibro di Aristotele e Tommaso d'Aquino, per non dire in età a noi più vicina di Locke e Rousseau. Per i nostri politici, invece, il problema non esiste proprio. Non appena lunedì scorso sono stati segnalati i primi tentativi di bloccare i treni che scorazzavano per la penisola gli armamenti americani destinati al futuro teatro di guerra, il responso è stato immediato. Quei tentativi, quali che fossero le loro finalità e le loro motivazioni, andavano condannati a priori in quanto illegali. E pazienza, se la tesi veniva argomentata da personaggi di dubbia fama, come quel Piero Stellino cui compito storico è quello di far perdonare al suo giornale le rare sbandate antiberlusconiane, o a sostenerla erano i ministri Pisanu e Martino o il presidente Casini, tutta gente da cui difficilmente ci si può aspettare un elogio della libertà di coscienza. Il problema, come avete notato, è che a questo interessante punto di vista si è accodata valanga una buona metà dell'Ulivo, pronta, con la solita dovizia di distinguo e di sfumature, a concordare comunque con Massimo D'Alema sul fatto che sono sbagliate le forme di lotta che si mettono fuori dalla legalità. È una citazione. Il problema oggi può sembrare superato, visto che settori importanti della sinistra hanno resistito al ricatto, che i blocchi sono continuati per tutta la settimana, dando al mondo un esempio di alto impegno civile che ha riscattato parzialmente il paese e dal cupo servilismo filoamericano del governo. Ma da quell'improvvido legalitarismo senza se e senza ma, sarebbe forse il caso di diffidare lo stesso. Il nostro sistema politico non ha mai amato le manifestazioni spontanee, le mobilitazioni di massa. È sempre stato pronto a invocare dei criteri generali che le rendessero volta a volta improponibili. Fino a oggi la discriminante a cui si è fatto ricorso con maggiore successo è stata storicamente quella della violenza. E ci sarebbe stato molto da dire, naturalmente, sul livello di malafede con cui si è gestito il dibattito relativo. Adesso che una serie di manifestazioni condotte bene o male, ma comunque con una metodologia non violenta, si oppone al discrimine della legalità, e beh, adesso sarebbe davvero opportuno stabilire dei punti fermi. Il diritto di rifiutare l'ordine ingiusto, di non collaborare affinché che l'ordine ingiusto venga eseguito e di non rispettare quindi le norme a ciò predisposte, al di là delle preoccupazioni di legalismo formale, ebbene, è un diritto che fa parte della tradizione democratica e va difeso con fermezza da chiunque vi ci si richiami. Altrimenti, visto che le discriminanti sono come le ciliegie, il rischio è quello di trovarsene di fronte domani qualcuna nuova di zecca, magari quella del consenso, come a dire la pretesa di considerare lecite solo le manifestazioni che approvano ciò che piace alle autorità. Sembra improbabile, dite? Wow. È quanto regolarmente succede da che mondo è mondo nei paesi in stato di guerra, ed è verso la guerra che costoro ci stanno appunto portando. Les évidences, c'est pas mon dessert. Tu les avales, il en sort un bouc émissaire. Moi c'est le doute qui me sert de casse-croûte. Moi c'est le doute qui me trace la route. On n'est pas des mules, mais qu'est-ce qu'on prend comme un coup dans la tête et dans les dents.